fatto la rottamazione terra, niente di meno, che era la Deiziana. E mi dice, dico, ma guarda, ma è ora di smetterla di rubare ai poveri. E questo mi disse, vabbè, ma i poveri ne sono di più, quelli che stanno a fare la cassa con le multe. L'anno scorso Villarosa al Tevano ha fatto 60.000 euro di multe di chi attraversava la strada. Quindi vabbè, le multe è uno dei mezzi in cui i comuni facevano cassa. E dico, ma i poveri ce ne sono di più, e dico, sì, però ricordati che la storia insegna che quando si girano i coglioni i poveri e fanno la rivoluzione, ne sono anche di più, non te lo scordare.